È acceso. Prova. Buongiorno. Piazza. Come va? Come va? Stanno scappando i fogli. Prova, prova, prova, prova. Rumore. Non mi piace questa posizione a capo. A posto, va bene? Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Se on ne pre, ça roule. Siamo arrivati. Siamo arrivati. prova. Ehi, sì. Buongiorno a tutti, stiamo arrivando! Granate! Le urla sono tornate! Le urla arriveranno fino alle Ande! Fino alle Ande! Ti perseguiterò! Mi sentirai sempre più basso, sempre di più, sempre. Eccoci qua, siamo pronti? Queste sono sempre le prove, signori e signori. Le prove tecniche di trasmissione di Radio Plaza sono iniziate da ben 15 minuti, tutto funziona, tutto è collegato, le voci sono pronte, il computer non si vede un cazzo e quindi possiamo anche iniziare tra pochi minuti. Salutone a un grande amico che conosciamo da anni, va e viene, puoi anche chiudere, eh? Ciao Luca, un grande saluto a Luca, fatta avanza, buh. Saluto a Nello, saluto a Carmine, ci siamo quasi tutti nella piazza, la piazza è calda stamattina, ci sono 22 gradi, signori, sembra estate, fermi, anzi, estate zitti! Oh,

del soggiorno, l'u compreso del mezzogiorno. Vedrai che il primo maggio suoni intorno a mezzogiorno. Compreso tipo Bregovic, compreso tipo Bregovic. Vedrai che il primo maggio suoni intorno al primo pomeriggio. Compreso con due cantanti di Pollina 77. Cantate uno alla volta che nessuno ci rimette. Compreso del territorio, l'u compreso del territorio. Impara altri quattro accordi che la doppia il repertorio. Compresi del primo maggio più importanti, tipo Negramaro e Giovanotti. Sappiate che voi siete i pesci grossi e prima si esibiscono gli avannotti. Possiamo pure rientrare? Entriamo, arriviamo, eccoci, siamo arrivati, qua. Buongiorno. Buona buongiorno. Giornata a tutti. Nuova puntata del Radio Plaza. Plaza in piazza per che cos'è perché? Radio Plaza? Diciamolo subito, così ci chiariamo con Radio quelli Plaza che non l'hanno radio, mai ascoltata. Ora, in questo momento, Radio Plaza è la piazza della piazza ed è nasce, continua e finisce oggi. Radio pazza che in piazza e spiazza, stramazza e direi addirittura scamazza. La puntata di oggi di Radio Plaza sarà dedicata nuovamente, ancora una volta, alla promozione dell'evento che avverrà il primo maggio a Marigliano. Primo maggio proprio Maria. Per questo oggi abbiamo aperto con un brano che è il complesso del primo maggio di Elio e le storie tese, tratte dall'album Bianco del 2013. Grande Elio, oggi grande le storie tese. Oggi presenteremo il programma ufficiale del primo maggio a Stazione Utopia, primo maggio 2018 terza di edizione, Marigliano. Terza edizione del primo maggio 2018 a Marigliano a Stazione Utopia. Ritorna la festa del primo maggio, quella che tutti conosciamo come concertone di Roma, poi di Taranto, magari anche di chissà quante altre città, ma si conoscono solo quelle, tutte anche Marigliano. Città, tutte le altre città, ma noi Marigliano. Marigliano, anche a Marigliano. Si ripropone dopo tantissimi anni di silenzio l'iniziativa per il primo maggio, festa dei lavoratori e concerto musicale, un'occasione di incontri, scambi, condivisione e musica, teatro, danza, letture, arte, yoga, ci sarà tanto tanto. Una giornata intera, una giornata bellissima, speriamo che non piova. Non pioverà e intanto ascoltiamo un altro brano prima di avviarci verso la presentazione della giornata del primo maggio. Ascoltiamo il brano Che Babilonia di Joe Sarnataro e Blue Stuff dall'album È Asciutto Pazzo Padrone del 2003. Sono qui. Allora ripartiamo lentamente, è ritornata la corrente, è ritornata la voce, nostri infedeli, è ritornata la musica, sta ritornando la musica. Non affidatevi mai alla tecnologia, un giorno o l'altro vi tradirà. Torniamo sul brano che stavamo ascoltando, che era no, il brano... No, ancora non l'avevamo ascoltato. Allora ripetiamo, ritorniamo. Ripetiamo tutto. Questa buongiorno, è Radio Plaza. Ben arrivati, siamo a Radio Plaza, siamo questa mattina, siamo qui al primo momento Riprendiamo con il brano Che Babilonia di Joe Sarnataro e Blue Stuff, gente delle nostre parti. Chi è che comanda? Non si capisce più. Ci scrive prima me, no, ci scrive prima tu. La vada l'ananza, la vada stimmata. Vieni sta porta, tornata rima. Riga Babilonia, riga Babilonia, riga Babilonia, riga Babilonia. Non viene permesso a camminare il passo, ma chi se ne vuole? Si usa ma fare russo, cercammo una parte, dopo un muro, 28 miliardi, 300 milioni. Riga Babilonia, riga Babilonia, riga Babilonia, riga Babilonia. Chiamata a Gennaro, cercata a Gigi, o sta a Basciagnare, un colpo per me. Fidiana di soldi, tre pacchi cambiati, tu rida la rinda, i fogli e i giornali. Riga Babilonia, riga Babilonia, riga Babilonia. program, e resta muove in aguac una maglia. Ci stanno i volumi, ma la serie in vetta, ci stanno i guagli una, che lucca ne so te! Gara Babilonia, di Gara Babilonia. Scassamo la drada, scassamo la più, ma basta che hai un gamma, io gamma a pallone. I gamba a begonia, i gamba a begonia. Scassamo tutte le secce, scassamo tutte le lastre, rimma c'è una buona mano, ma vanno d'asso. A roba c'è di steria, ma vanno c'è ospizi, appicciamo a baranza, ma roba la c'è giustizia. Diga Babilonia, proprio pozza. Diga Babilonia, diga Babilonia, diga Babilonia. Torniamo con Radio Plaza, torniamo stamattina in piazza per promuovere la giornata del primo maggio a Stazione Utopia. Sarà un primo maggio spaziale, sarà un primo maggio di arte, di musica, di teatro, di danza, di incontri, di yoga, di bambini, di grandi, di cucina, di stand, di lettura. E a proposito della lettura, noi invitiamo sempre tutti a leggere, ma perché? Perché dobbiamo leggere? Allora oggi vi diamo, secondo qualcuno, 8 buoni motivi per leggere, per la lettura. Inizio io? Inizia, dai, vediamo che ci proponi. Allora, Daniel Pennac ci dice: il tempo per leggere dilata il tempo per vivere. E io ne ho una di Hermann Hesse che invece dice: dobbiamo leggere per impossessarci della nostra vita. Leggere è trovarsi di fronte il reale nella sua massima concentrazione. Questa è Amélie Nothomb. E Vittorio Alfieri ci dice che leggere, come io l'intendo, vuol dire profondamente pensare. Sì, anche Pierpaolo Pasolini partecipa a questo giochino e dice: puoi leggere e sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza speciale che è la cultura. Pierpaolo Pasolini. E Marcel Proust invece ci dice: la lettura ci insegna ad accrescere il valore della vita. Perché la lettura rende un uomo completo, diceva Francis Bacon. E l'ottavo di questi buoni motivi sarebbe quello di Francis de Croisset, che dice: la lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno. E a proposito di treni, treni che passavano lì alla vecchia stazione della Circumvesuviana di Marigliano, oggi invece è diventata quella che tutti conosciamo come Stazione Utopia. E quindi vi invitiamo a partecipare al primo maggio a Stazione Utopia, primo maggio di grandi cose, di musica. Poi vi presenteremo gli artisti che parteciperanno. Qual è il titolo, curiosità, qual è il titolo del primo maggio a Stazione Utopia? È un titolo che fa rima con maggio, potrebbe essere... Mangia il faggio. Potrebbe essere Viva il foraggio. O anche Leggiamo il sondaggio. O Andiamo verso l'equipaggio. Occhio all'ingranaggio, questo è il titolo del primo maggio a Stazione Utopia. Occhio all'ingranaggio. Questa è Radio Plaza e ascoltiamoci un po' di musica, piccola pausa, ritorniamo tra poco. Occhi chiusi, orecchie aperte e cuore spalancato. Radio Plaza. Pensarti tutta quante quel che un uomo vuole. e a furia di desiderarti, di descrivere le parti del tuo corpo mai ridotto a uno scrittore. Son bella un rudere, la barba pizzica, questa camicia se ne andrebbe volentieri in tintoria da sola. Se potesse lo farei io, ma non posso, non adesso che ho da scrivere di te. Serve l'amore per scrivere miliardi di poesie piene di rose e di tutte quelle altre smancerie analfabetiche, rime senza originalità. Scuocerò la pasta, brucerò il caffè. Voglio stare qui a crearti, a disegnarti, ad affogarti nell'inchiostro delle rime e dei cliché. Mi metto in posa là sulla mia scrivania, becco la punta della penna con grande. Ma è un abbiro da due soldi di una cassa di risparmio che è fallita proprio qualche giorno fa. Serve l'amore per scrivere miliardi di idiozie piene di rose e di tutte quelle altre smancerie analfabetiche, rime senza originalità. Radio Plaza, rientriamo in diretta qui dalla Piazza delle Pipparelle a Marigliano. Oggi giornata speciale, puntata speciale di Radio Plaza, la radio effimera che qualcuno ha definito un quadro dipinto con l'acqua. Eccola qui, Radio Plaza arriva, vi inonda di informazioni, letture, notizie, voci, musica e svalvolate. E a proposito di musica, quella che abbiamo sentito era il brano Lo scrittore dei No Braino, dall'album L'ultimo dei No Braino del 2014. Sì, abbiamo programmato Lo scrittore dei No Braino, pezzo bellissimo secondo me. Ci ricolleghiamo al programma del 1° maggio a Stazione Utopia con questo brano, per dirvi che sarà partecipe, anzi già sta partecipando da qualche settimana alla programmazione del 1° maggio a Stazione Utopia, la Little Free Library di Via Aliperti a Saviano. Cos'è la Little Free Library a volo? È una piccola biblioteca di quartiere che è insomma, accessibile a tutti, completamente gratuita, dove la parola d'ordine è prendi un libro e lascia un libro, quindi libero scambio da poco anche attivo già a Stazione Utopia, quindi vi ricordiamo di andare alla cassetta del libero scambio di Stazione Utopia, di prendere un libro e lasciare un libro gratuitamente e liberamente. Bene, Little Free Library sarà presente a Stazione Utopia quel giorno, 1° maggio, con un programma di letture per bambini e anche adulti. Ci saranno letture per bambini 3-6 anni dal titolo Raccontami una storia, e poi ci saranno invece letture per adulti dal titolo, cioè prese da Lettera ai contadini sulla povertà e sulla pace, dal libro e poi anche ovviamente film Metropolis. E insieme al Little Free Library contemporaneamente ci sarà anche lo yoga. Yoga per bambini sempre. Yoga per bambini. Quindi uno spazio della mattinata sarà dedicato ai bambini. E a proposito di bambini, a me viene in mente sempre il grande Gianni Rodari, che ha scritto cose per bambini, ma a leggerle noi non ci fa tanto male. Non dimenticate questo nome, Gianni Rodari. Dicevamo che a Stazione Utopia si parte quindi la mattina con la mattina del 1° maggio per la terza edizione 2018 di 1° maggio Occhio all'ingranaggio. Si parte con le letture per bambini, lo yoga per bambini, ma ci sarà anche l'arte. E a proposito di arte, vi leggo il pittore di Gianni Rodari. Una volta c'era un pittore povero in canna, non aveva nemmeno un colore e per fare pennelli si era strappati i capelli. Andò dal padrone del blu e gli disse: «Per favore, dammi tu un po' di colore per dipingere un cielo». «Ma mica tanto, un soffio, un velo». «Vattene, vattene, fannullone, pezzo di accattone, se non vuoi che ti lisci il groppone col bastone». Andò dal padrone del giallo e gli disse così: «Prestami qualche avanzo di colore, un ritaglio, abbastanza per fare un girasole». Ma quello lo aggredì con un torrente di male parole: «Pezzente delinquente, la finisci di seccare la gente?». Andò dal padrone del verde, andò dal padrone del bruno, ma non gli dava retta nessuno. Infine pensò: «Il rosso ce l'ho!». Detto fatto, un dito si tagliò e sul rosso e il rosso gocciò sulla tela. Era una lacrima appena, una perla di sangue, ma tinse in un istante la tela intera, rossa come un falò di primavera. Bene, questo era Gianni Rodari, abbiamo letto questa poesiola, il pittore, proprio per ricollegarci sempre al programma del primo maggio a Stazione Utopia, sarà presente la Fucina dell'Arte, che è una galleria d'arte che sta qui a Marigliano. Invitiamo tutti ad andarla a visitare, arte varia, dalla pittura alla ceramica, alla decorazione. Loro saranno presenti a Stazione Utopia con una estemporanea di pittura, quindi pittura dal vivo. A proposito di pittura e di pittore, dicevi, Anna? Che si occupano anche di corsi di ceramica artistica, di eventi artisti in genere. Sono Antonietta Fierro e Jacopo Camera, che saranno presenti anche il primo maggio a Marigliano per promuovere le attività dell'associazione. Bene, ci ascoltiamo un brano dall'album Sotto Casa di Max Gazzè, Atto di Forza, che ha scelto Anna. Una vera opera d'arte, un quadro dipinto d'arte. Con la musica. Radio Plaza, buon ascolto. Eva del buio arcigno, come una bolla d'aria, verde perfetto svaria, in comignoli dove è pieno di pioggia, qualche abbaglio asciutto e un tuono di carta ondeggia. Il cielo rivela filamenti di nubi strette, le braci violette fosforescenti del sole già nato fanno il lago lento e sottile un laminato d'argento. E vapore immerso di nebbia come lenzuoli e in mezzo alle labbra due fili d'erba, lei tira sassi, ricurva sui buchi nell'acqua, riflessi, ci specchia i suoi pochi vent'anni di età. Ma dietro il cappello di paglia lui calmo ritaglia un po' d'ombra e si vanta d'un palmo da lei per quello che appare da tanta bellezza ed immonda. Perché la ragazza ha tradito lasciando in lui prati di niente e un fuoco distante a incendiarlo. Pulsa la orta nel collo della ragazza nuda, lo stallo una volta voluto è carne che grida aiuto. Si attacca alla panchina un vento di latta, la frusta sulla schiena e aspetta la grandine come un ceffone, fai fuglia strana cadaveri di parole, fasci di cielo inchiodano gli alberi allo sfondo e quest'ingombro di nuvole in nero sfoga rovesci come minacce calo verticale, l'attraversa pieno, è come diversa la vita reale. I nubi fragili sono miti e fragili, stalattiti di cielo. Bene, questa è Radio Plaza, siamo qui in piazza oggi a presentare il programma del primo maggio a Stazione Utopia, che si farà, ragazzi, si farà il primo maggio. Bene, volevamo leggere a proposito di Stazione Utopia, che al di là del valore, diciamo così, fisico, ha un valore metafisico e altamente filosofico. Ed è per questo che già nell'altra puntata abbiamo introdotto alla nascita della tragedia di Friedrich Nietzsche, che a dispetto del titolo del libro, ma ha una profondità veramente universale, assoluta diremmo. Ci siamo lasciati l'altra volta con Nietzsche, che ci aveva citato nell'apertura della nascita della tragedia, ci aveva anticipato un pezzo di Hans Sachs nei Maestri Cantori. Riparto proprio da quel pezzo lì e continuiamo nella lettura della nascita della tragedia, perché un po' di filosofia, signori, fa bene. Amico mio, proprio questa è l'opera del poeta, che egli interpreti e noti il suo sognare. Credetemi, la più vera illusione dell'uomo gli viene aperta nel sogno. Ogni arte poetica e poesia non è che interpretazione del sogno vero. La bella parvenza dei mondi del sogno, nella cui produzione ogni uomo è artista pieno, è il presupposto di ogni arte figurativa, anzi, come vedremo, altresì di una metà essenziale della poesia. Nella comprensione immediata della figura noi godiamo. Tutte le forme ci parlano, non c'è niente di indifferente e di non necessario. Tuttavia, nonostante la vita suprema di questa realtà sognata, traluce ancora in noi il sentimento della sua illusione. Almeno questa è la mia esperienza, sulla cui frequenza, anzi normalità, avrei da addurre più di una testimonianza e le dichiarazioni dei poeti. L'uomo filosofico ha anzi il presentimento che anche sotto questa realtà in cui viviamo e siamo ce ne sia nascosta una seconda affatto diversa, che cioè anch'essa sia un'illusione. E Schopenhauer indica addirittura come segno distintivo dell'attitudine filosofica il dono naturale, per cui a qualcuno gli uomini e tutte le cose appaiono a volte come meri fantasmi e immagini di sogno. Ora, come il filosofo si comporta con la realtà dell'esistenza, così l'uomo artisticamente eccitabile si comporta con la realtà del sogno, cioè sta a guardare attentamente e volentieri, giacché in base a queste immagini egli si spiega la vita, con questi eventi si esercita per la vita. Ma non sono soltanto le immagini piacevoli e amiche che egli sperimenta in sé con perspicuità totale. Davanti a lui passano anche le cose serie, cupe, tristi, tetre, gli impedimenti improvvisi, le beffe del caso, le attese angosciose, insomma, tutta la divina commedia della vita con l'inferno, e non solo come un gioco d'ombre, giacché anche egli vive e soffre in queste scene, ma altresì non senza quel fuggevole senso dell'illusione. E forse più di uno ricorda, come me, di essersi talvolta detto nei pericoli e terrori del sogno, per incoraggiarsi, e con successo: è un sogno, voglio continuare a sognarlo. Come pure mi è stato raccontato di persone che erano in grado di proseguire per 3 e più notti successive la concatenazione di uno stesso identico sogno. Fatti che attestano chiaramente come il nostro essere intimo, il sostrato comune di tutti noi, sperimenti in sé il sogno con profondo piacere e gioiosa necessità. Questo è Radio Plaza e quello che abbiamo letto è Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia. E ora dopo Nietzsche ci ascoltiamo. Dopo Nietzsche e non solo. Cosa abbiamo ascoltato sotto Nietzsche? Sotto Nietzsche? Perché sotto sotto a Nietzsche c'era... C'era un brano. Invece adesso ascoltiamo The Modern Jazz Quartet dall'album Piramide del 1960. Radio Plaza, eccoci qua. Non vi molleremo mai, perché soia ci molla. Radio Plaza, eccoci qua, rientriamo live, dal vivo. Rientriamo in piazza, rientriamo dopo un momento di alta filosofia alta e rientriamo filosofia. Però con un giochino. Ma perché anche la filosofia è un gioco, quindi basta prenderla col verso dal verso giusto e la filosofia vi aiuterà a vivere. E allora facciamo un giochino, parto io. Ti facciamo un gioco, quale gioco? Gioco del se fosse? Anche consigli da chi volesse darne. Facciamo che se il primo maggio a Marigliano, a Stazione Utopia, se il primo maggio a Stazione Utopia, se il primo maggio Occhio all'ingranaggio terza edizione 2018 fosse una giostra, che giostra sarebbe? Sarebbe il calcio in culo. Ah, e se invece fosse un'invenzione, che cosa sarebbe? Ah, se il primo maggio a Stazione Utopia fosse un'invenzione, direi che potrebbe anche essere... La radio! La radio! Sarebbe la radio! E se il primo maggio a Stazione Utopia fosse un segnale stradale? Se il primo maggio a Stazione Utopia fosse un segnale stradale, sarebbe il Via Libera, esiste? Se non esiste lo inventiamo noi. Lo inventiamo noi, nuovo segnale stradale, signori, prendete contatti con i ministeri, amici vostri. Faccio io qualche domanda? Vediamo. E allora, se fosse una parte del corpo? Sarebbe la bocca, la lingua, i sensi. La voce? Anche la voce della libertà. E se il primo maggio a Stazione Utopia, edizione 2018, terza edizione, Occhio all'ingranaggio, sarebbe un ortaggio? Fosse? Ops, No, vabbè, ma non è un problema perché siamo tra di noi. Siamo tra di noi. Non dite se a nessuno che insegno italiano. Allora, se fosse un ortaggio, vediamo un po', se fosse un ortaggio, io non so se è un ortaggio, ma direi che potrebbe essere un melone. Quello rosso o quello giallo? Quello giallo, che è piccolo, però è pieno di polpa, quindi pieno di contenuto e molto, ma molto, ma molto saporito. E se il primo maggio a Stazione Utopia, terza edizione, fosse un cane? Ah, secondo me il primo maggio a Stazione Utopia quest'anno, se fosse un cane, potrebbe essere un cane che cerca tartufi, quelli che sono nascosti, perché li devi andare a cercare, devi sporcarti, mettere il muso nella terra e poi finalmente potrai scoprire un tubero, perché il tartufo è un tubero? O un tubero? Tubero. Sarà un tubero o una radice, non sappiamo. Comunque potrebbe essere una specie di patata che è rarissimo e soprattutto è preziosissimo. E i cani da tartufo hanno proprio quel naso giusto per cercare le cose nascoste. I cani da tartufo preziose. Sembrano cani normali, ma non sono normali. E allora tanti cani da tartufo a Stazione Utopia. Facciamone ancora un'altra. Se il primo maggio... La faccio io. Se il primo maggio a Stazione Utopia fosse un mezzo di trasporto? Se fosse un mezzo di trasporto potrebbe essere tra... Vabbè, il treno è scontato perché è all'ex stazione della Circumvesuviana di Marigliano, però potrebbe essere alto come un aereo e basso come un sommergibile. Alto come un aereo e basso, ma profondo. Profondo. Profondo come un sommergibile. Bene. Primo ancora maggio. Una. Bella l'immagine del primo maggio a Stazione Utopia come sommergibile che appunto scandaglia le profondità. Bellissima questa immagine. Molto bene. E un'altra? Se fosse un paio di scarpe. Se fosse un paio di scarpe. Se fosse un paio di scarpe, il primo maggio a Stazione Utopia, diciamo che. Dillo tu. Secondo me sarebbero quelle che indosso io per te e quelle che indossi tu per me. Scambio e condivisione, il primo maggio a Stazione Utopia. Va bene, vogliamo e andare se avanti. Se fosse musica sarebbe quella che ascoltiamo adesso. Cioè, che ascoltiamo adesso? Diciamo, mi sono un attimo distratto. Sarebbe il brano Si fosse fuoco di Fabrizio De André. Ah, in seguito al gioco del Se fosse, si fossi fuoco di Fabrizio De André. Questa è Radio Plaza, buona domenica. E se fosse una parola? Anarchia! Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo. Si fosse papa sarei allor giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, si fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie lai dell'asserei altrui. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo. Il tuo prossimo è lo sconosciuto che è in te, reso visibile. Il suo volto si riflette nelle acque tranquille. Se tenderai l'orecchio nella notte, è lui che sentirai parlare. E le sue parole saranno i battiti del tuo stesso cuore. Non sei tu solo ad essere te stesso. Sei presente nelle azioni degli altri uomini. E questo, senza saperlo, sono con te in ognuno dei tuoi giorni. Non precipiteranno se tu non precipiterai con loro. E non si rialzeranno se tu non ti rialzerai. Questo era Gibran, il pezzo è L'altro di Gibran. che introduce... Abbiamo scelto questo pezzo per introdurre un'altra parte della mattinata che si terrà il 1° maggio 2018 a Stazione Utopia. Vi raccontiamo di Nova Koinè, che è l'associazione che si occuperà di un laboratorio intitolato Lo straniero per italiani. Sarà molto interessante come cosa. E Nova Koinè è un'associazione che si trova qui sul territorio di Marigliano. È un'associazione che crede che l'azione rivolta a persone di altre lingue, culture ed etnia possa stimolare nella nostra comunità di appartenenza l'insorgere di condizioni favorevoli all'utilizzo di una lingua come veicolo di crescita multidimensionale del singolo nella comunità e della comunità tutta. Una lingua che limita gli effetti di quella invece che viene usata come esclusione, insomma, la lingua come strumento di incontro, di interazione, una lingua come opportunità che si arricchisce nel tempo. Leggiamo dal sito dell'associazione di promozione sociale Nova Koinè qua di Marigliano: la nostra azione tende in definitiva a diffondere le basi di una nuova comunicazione possibile. Molto interessante e direi Anna, molto prezioso il lavoro di Nova Koinè qua sul territorio. Preziosissimo, così preziosissimo. Tanto prezioso che noi invitiamo tutti a partecipare alle loro lezioni di italiano per stranieri. Ci divertiremo un sacco. Di straniero lezioni di straniero. Ci siamo un po' confusi perché quelle poi le lingue si... come si dice? Si imbrogliano in lingue e non riusciamo a capirci più. Giusto, è una lezione di straniero per italiani. Questa volta l'ho detto bene. E quindi, ripetendo che Nova Koinè terrà una lezione di straniero per italiani a Marigliano 1 maggio 2018 nell'ambito della terza edizione di 1 maggio Occhio all'ingranaggio, ci ascoltiamo adesso un brano, Occhio non vede, cuore non duole, di Lorenzo Giovanotti, dall'album L'albero del 1977. Il più bel disco di Giovanotti. Il nemico si nasconde, si mimetizza tra le pieghe della coscienza, la sua violenza è subdola, il suo passo di gatto, difficile davvero coglierlo sul fatto. Il nemico è tra noi, è dentro di noi, per farlo fuori occorre rinunciare ad una parte di noi stessi. Se un tempo era più facile lottare contro ciò che non andava, perché il nemico una faccia ce l'aveva, una voce, una bandiera, sapevi dove andare a prenderlo in giro la sera, aveva nomi e facce, ma non è più così. Adesso non si vede, ma lui è ancora qui, più forte che mai, e sotto sotto spinge col suo dai e dai, e ha stipulato un patto con le coscienze addormentate nella pubblicità di una realtà falsificata. A migliaia di chilometri di distanza da questa stanza, uomini e bambini schiavizzati, sottopagati, diritti negati, derubati dell'infanzia, in qualche capannone in un paese dell'estremo oriente, lavorano e producono le grif dell'Occidente, e qui non si sa niente perché sta bene a tanti, tacere verità che sono atroci e allucinanti, pilastri di un'economia vincente dal volto appariscente, che crea la sua ricchezza con la sofferenza di un sacco di gente. E quanti dovranno soffrire, quante mucche impazzire, quanta aria velenosa bisognerà respirare, quanti cibi avvelenati bisognerà divorare, quante malattie ancora per interesse non si potranno curare, prima che qualcuno pensi che così non va bene, ma il nemico si è infiltrato dentro al sangue che ci scorre nelle vene, nei sorrisi compiacenti di politiche fatte di parole, all'insegna di occhio non vede, cuore non duole. Occhio non vede, cuore non duole. Il nemico è il volto sorridente, cravatta e doppio petto, intorno a grandi tavoli fancetta di rispetto e di sorrisi, strette di mano, accordi tra potenti che non guardano lontano e approvano la produzione di mini antiuomo, di tutti gli armamenti necessari perché questo sistema si mantenga bello saldo sui binari di sangue dove viaggia, così che anche il coraggio più coraggio si scoraggia di fronte a questo gioco dove tutti hanno ragione e i peggiori criminali sono tenuti in alta considerazione e viaggiano in corsia preferenziale. Rimbalzano sull'ammortizzatore sociale e non si fanno mai male. E non si fanno mai male. e cambiano i governi ed il nemico gli sorride in silenzio, protetto dalla logica del tacito consenso di chi gode di questa situazione che fa comodo a tanti, tenere alto il livello di paura e le coscienze ignoranti, paura della povertà, paura dell'ignoto, paura di trovarsi di fronte al grande vuoto di se stessi, con la coscienza critica in stato di assoluta catalessi, sconfiggere il nemico e guardarsi dentro, cercare il proprio centro e dargli vita come un fuoco quasi spento, renderlo vivo e dargli movimento. Il nemico si nasconde spesso in quello che crediamo, nei moralismi ipocriti e nelle trasgressioni controllate organizzate, nelle droghe illegali e sotto banco ben distribuite. Il nemico crea falsi nemici per farsi scudo e apparire per bene, modellerà il suo aspetto e prenderà la forma di ciò che lo contiene, spacciandosi per libertà ti legherà con le sue catene. Conservare il controllo di ciò che vediamo, conservare il controllo di ciò che sentiamo, verificare se sotto l'aspetto invitante di un'esca non sia nascosto un amo, sconfiggere il nemico e guardarsi dentro, cercare il proprio centro e dargli vita come un fuoco quasi spento, renderlo vivo e dargli movimento, e dargli movimento, e dargli movimento, e dargli movimento, e dargli movimento. Qua rientriamo, questa è Radio Plaza, siete in ascolto di questo programma radiofonico improvvisato in piazza dal vivo e abbraccio addirittura, abbraccio tutti, abbraccio pure quelli che diciamo al 1° maggio potevano esserci e non ci saranno, eccoli là, ce ne sono tanti di quelli che avevano più o meno dato un'adesione e poi buonanotte signori me ne vado in vacanza, ma ce ne saranno tanti ma altri, ma ce ne saranno ce molti saranno altri, molti altri, altri. Sì. Ci sarà per esempio tutta una zona dedicata ai banchetti, agli stand, e in questi banchetti si mangerà anche, perché ci sarà cucina clandestina a darci da mangiare, cucina marocchina a darci da mangiare. Cucina clandestina, vai, spieghiamo un po' questa cucina clandestina, chi è? Cucina clandestina. Con tutte queste macchine che scorazzano qui nella piazza. Cucina clandestina nasce per caso all'asilo da un piccolo collettivo di cucinieri che hanno cominciato a praticare cucina durante l'organizzazione di iniziative di autoproduzioni. E cucina clandestina è diventata poi una cucina itinerante che collabora con festival culturali e continua a partecipare all'attività dell'asilo. E a partire dal proprio modo di vivere nelle campagne cittadine, nella regione questa dove ci troviamo, e nel modo di lavorare la terra in modo naturale, non usa sostanze chimiche dannose per l'ambiente, tratta i temi di responsabilità collettiva e libertà sulla base di fiducia e rispetto. Cucina clandestina ha sempre autoprodotto il cibo che utilizza in cucina, prendendo dalle proprie terre o da persone vicine. Cucina clandestina fa una cucina principalmente a base di cereali, verdure, ortaggi, semi, legumi e frutta. Per ricordare... Vai, scorazza! Dai, fatti sentire, anche se sei piccola 127! Grande 127 verde! Cucina clandestina, prima della 127 verde. Una cosa importante importante è che Cucina Clandestina utilizza non materiale usa e getta per piatti. Attenzione, posate. Che arrivano, ne arrivano degli altri. Noi siamo in piazza qui, siamo in piazza quindi in diretta. Marigliano invasa dai motori. Signori, Marigliano invasa dai motori, chiamate le guardie! Ci sono già! Tutti che scorazzano, che accelerano, che scollano, che svitrano e che mandano in aria fumi pericolosi! Allarme! Allarme! Chiamate Saverio! Chiamate Saverio Lo Sapio! Allarme inquinamento a Marigliano! E un saluto a tutti da Radio Plaza! Ovunque voi andiate, buon viaggio a tutti! Buon viaggio a tutti e buon ascolto! Questa è Radio Plaza! Prima di continuare volevo solo ricordare, perché è meglio se ci portiamo pure il piatto, il bicchiere, le posate, il primo maggio, quando parteciperemo alla terza edizione del primo maggio, occhio all'ingranaggio, all'ex stazione della alla stazione dell'ex città, insomma, lì, a quella che oggi è stazione Utopia. Quindi evento a rifiuti zero, cosa, una rarità in questo territorio, un evento finalmente a rifiuti zero, però... Bisogna che partecipino tutti, partecipiate voi, tutti partecipiamo, tutti noi, a questa operazione rifiuti zero. Parteciperà un sacco di gente ai banchetti, insieme alla cucina, abbiamo detto cucina clandestina, ci sarà la cucina marocchina, ci saranno anche i libri. Sì, ci saranno anche i libri con Peppe Aiello, un compagno di Napoli, che porterà qui la sua operazione Candilita Libri. E per capire che cos'è Candilita Libri, cioè è un banchetto con editoria indipendente, libri rari e libri introvabili anche, quindi scorazzare tra i libri di Peppe Aiello è sempre un piacere. Venite a vedere, venite a visitarlo, il banchetto di Peppe. Vi presentiamo Candilita Libri in questo modo. Una sola specie di formiche vale tutto il mondo degli insetti e meriterebbe il suo Omero. È la più piccola e la più terribile, la candilita. Invisibile e onnipresente, è veramente il microcosmo della cattiveria, la ferocia puntualizzata. Ha un colore rossastro e la grandezza di un punto. Vive sulle foglie e si lascia cadere appena il ramo viene messo in agitazione. Sul corpo le candilite non attaccano subito, sanno approfittare del privilegio della dimensione e si dirigono con marcia sicura alle parti più teneri e sensibili. Quando le sonde istintive dicono loro di essere sulla pelle più delicata, incominciano un'azione furibonda. La presenza di alcune candilite mette un pizzicore tra il prurito e il dolore cocente che non lascia più pace. L'illusione del grattarsi peggiora la situazione. Sopravviene una vera e propria smania nervosa che ci porta a maledire la foresta, il fiume, le formiche e noi stessi. Ci sarà cucina, libri, E poi ci saranno tante cose buone da comprare, autoproduzioni contadine di liberi agricoltori di varie zone della regione campana, e tutte trattate in modo serio e preciso. Ci saranno diversi stand e poi ci sarà ancora musica, ancora adesso, musica ancora. Con un altro brano. Lo presento io questo brano? Questo che dite? Qua è quello che vuole presentare Carmine. Quello che voglio presentare io, perché l'ho scelto io, l'avevo scelto per molte altre puntate di Radio Plaza, purtroppo non l'abbiamo potuto programmare per programmazioni già ben definite e soprattutto per gli spazi, ma anche e soprattutto per il genere che il brano presenta. È un rock di quelli veramente potenti. Il brano bando alle presentazioni, diciamo così, questa è Radio Plaza e Radio Plaza promuove la libertà, Radio Plaza promuove la verità, Radio Plaza promuove il teatro degli orrori. Il brano è A sangue freddo ed è dedicato a Kensaro Wiwa, che è un poeta nigeriano, un eroe dei nostri tempi, quegli eroi di cui non se ne parla, i santi laici di cui parlano, diciamo, i sapientoni. Eccoli qua, un santo laico che abbiamo avuto nella storia recente è Kensaro Wiwa, poeta nigeriano ammazzato proprio per le sue idee e proprio per la sua capacità di poter dire e dimostrare tutte le infamie che in Nigeria le multinazionali del petrolio hanno potuto scatenare negli ultimi 30 anni. E allora Sangue Freddo, Teatro degli Orrori. A sangue freddo su Radio Plaza, eccoci qua, siamo rientrati in diretta on air, come dicono nelle radio professionistiche, ma che non passano certa musica. Eccoci qua, solo Radio Plaza siamo passa questa musica. Siamo rientrati con Radio Plaza, siamo rientrati anche per ricordarvi che a fianco al banchetti di Radio Plaza oggi c'è ancora il banchetto per la raccolta fondi per sostenere il concerto e tutto l'evento del primo maggio 2018 a Stazione Utopia. Quindi forza, venite gente! Sì, perché il primo maggio a Stazione Utopia, precisiamo per quelli un po' distratti, primo maggio a Stazione Utopia è autofinanziato, ossia non c'è l'utilizzo di fondi pubblici per questo primo maggio, è un primo maggio auto-organizzato, autogestito, autofinanziato. Di partecipazione di tanta gente. Abbiamo già raccontato cosa succederà la mattina con i laboratori di lettura per bambini, con i laboratori dello yoga per bambini, le letture per adulti, la lezione di straniero per italiani di Nova Coenè, e poi si continuerà, ci sarà per tutto il giorno, ci saranno gli stand. E quindi per sostenere, diciamo, le varie spese necessarie per appunto per realizzare questo grandissimo evento per la terza edizione del primo maggio a Stazione Utopia, il primo maggio 2018. Stazione Utopia è l'area ex circumvesuviana di Marigliano. Per chi non la conoscesse, la trovate anche su Google, mi raccomando, andate a vedere com'è simpatica la situazione. Com'era? Ah, soprattutto com'era, perché com'era ce lo siamo dimenticati. Meno male, dimentichiamo il brutto, ricordiamo il bello. Siamo tutti pronti a criticare, molto bene. Ricordiamo il bello di Stazione Utopia sarà ancora una volta il primo maggio, terza edizione di primo maggio, occhio all'ingranaggio 2018, sosteniamola qui ora al banchetto oppure su www.produzionidalbasso.com. Sì, www.produzionidalbasso.com, c'è attiva la raccolta fondi per sostenere le spese, molto semplice, in 2-3 passaggi si riesce ad offrire da un centesimo a 100 milioni di euro. E anche mi raccomando, 8 milioni di euro, organizziamo un bellissimo concerto con i Red Hot Chili Peppers e con la radio, ancora radio. A proposito di radio, ancora il mio amico Gianni Rodari scriveva: viaggia e viaggia di fianco all'armadio, su un tavolino c'è la radio, attenzione, giro il bottone, parla la voce del Giappone, il giapponese non lo capisco, faccio una corsa a San Francisco oppure a Londra, a Mosca, a Pechino, senza spostarmi d'un passettino. La voce che arriva nella mia stanza viene dal capo di Buona Speranza. Se suona il violino a Costa Rica, io sento tutto senza fatica. Per ubbidire al mio bottone, ho attraversato forse un tifone. Sì, questa era la radio di Gianni Rodari. Oggi è bello Gianni Rodari, mischiato a Friedrich Nietzsche e alla musica progressiva. Ascoltiamo un po' di musica progressiva, va! Primo maggio 2018 per la terza edizione di Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio ospiterà un sacco di bella gente. Sì, Radio Plaza ci sarà e Radio Plaza, come quelli che la conoscono sanno, è musica, voci libere, ma anche interviste e scambi culturali con, diciamo, delle realtà autonome operanti sul territorio non solo campano e napoletano, ma addirittura nazionale. Vogliamo iniziare, allora capiamo un attimo chi ci sarà, quali sono gli ospiti di Radio Plaza primo maggio 2018. Ti dico un'intervista ad un regista. Un regista di film? Sì, un regista di un film, di un docufilm. Bene, quale sarebbe il film di Harvest? Il film, sì, e il regista si chiama... Lasciamo perdere, lasciamolo al mistero, lasciamo un mistero. Intervisteremo quindi il regista di questo docufilm di Harvest, che... Che cos'è questo film? Lo vogliamo raccontare? Raccontiamolo. Migliaia di lavoratori stranieri sostengono oggi la più famosa delle eccellenze italiane, la produzione agroalimentare. Allora, non so se sono stato chiaro, lo dico un'altra volta. La famosa eccellenza italiana oggi viene sostenuta dal lavoro di migliaia di lavoratori stranieri, la famosa eccellenza italiana agroalimentare. È bene saperlo questo. Sono gli stranieri che lavorano nei campi e che producono quella eccellenza italiana che Italy e i suoi, diciamo, simili si vanno a vendere in America a fare fior di miliardi, fior di miliardi. Comunque, sfruttamento. E allora The Harvest è un docufilm che racconta appunto la condizione di questi lavoratori, di un quotidiano sfruttamento. La trama è quella della storia, sono due storie che si intrecciano. Sono due storie che si intrecciano, sì, il film è molto interessante perché è fatto, diciamo, sullo stile musical, quindi The Harvest, non dimenticate questo titolo, leggiamo la trama, va? Gurwin viene dal Punjab, da anni lavora come bracciante delle serre dell'Agropontino. Da quando è arrivato in Italia vive insieme al resto della comunità Sikh in provincia di Latina. Anche Ardip è indiana, ma parla con accento romano e si impegna come mediatrice culturale. Lei, nata e cresciuta in Italia, cerca il riscatto dai ricordi di una famiglia emigrata in un'altra epoca. Lui è costretto, contro le norme del suo stesso credo, ad assumere metanfetamine e sostanze dopanti per reggere i pesanti ritmi di lavoro e mandare soldi in India. Ebbene, questo è il racconto che viene fatto in questo docufilm musicale, che racconta appunto l'umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali nelle campagne italiane. Mentre si combatte per i diritti degli italiani, si sfruttano i lavoratori stranieri nei campi italiani che producono, come dicevo prima, l'eccellenza italiana agroalimentare. E quindi diritti di tutti e di tutte, male. Diritti dell'umanità intera. Il film è ovviamente il regista, ricordiamolo, prima scherzavamo. Sì. Avremo l'intervista con il regista del film, Mariani. Il regista Mariani. Ed ora continuiamo con. Facciamo una piccola pausa musicale. Sì, e riprendiamo dopo con il secondo ospite a Radio Plaza il 1 maggio 2018 a Stazione Utopia. Intanto in sottofondo abbiamo ascoltato un pezzettino del brano Soft Machine del 75. Bene, io nacqui nel 75. Lo so che non dimostro gli anni che ho, non li dimostro, li dimostro molti, ma molti, molti di meno. Ed invece nel 2014 a Bari nasce il secondo ospite della puntata di secondo, ma così in ordine sparso. In ordine sparso, è chiaro. Il secondo ospite della puntata radio che si terrà, lo ricordiamo, il 1 maggio 2018, terza edizione di 1 maggio, occhio all'ingranaggio, sosteniamolo oggi, adesso, in questo momento. Qui al banchetto sosteniamo il 1 maggio a Stazione Utopia. Dicevamo, un altro ospite della radio sarà Netzanet Solidaria. Sì, Solidaria è un'associazione che nasce a Bari nel 2014 da un gruppo di rifugiati politici e da giovani italiani, contadini, studenti, precari, disoccupati che si incontrano e mettono su questa esperienza di tipo cooperativo e mutualistico, avviando un progetto di autoproduzione di salsa di pomodoro. Tutto è all'interno di una filiera produttiva etica, naturale e fuori mercato, interamente curata e autogestita dalla semina alla raccolta e dalla trasformazione alla distribuzione. Appunto, Solidaria è promotrice nel 2014 di Netzanet, che in lingua tigrina significa libertà, e nel 2015 di Sfrutta Zero, mettendo in rete con l'associazione Diritti a Sud di Nardò e Fuori dal Ghetto di Venosa, che oggi si chiama Funky Tomato. Insieme con cui loro hanno costituito una cassa di mutuo soccorso per sostenere i percorsi di rivendicazione e autodeterminazione dei migranti e per favorire l'incontro tra diverse vertenze, sperimentazioni e, insomma, insieme hanno dato vita a progetti che hanno l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti e precari, e non solo migranti ma anche italiani precari, quindi l'inclusione sociale aperta a tutti, altro che prima gli italiani. Prima gli italiani è un concetto vecchio, signori, molto vecchio. Prima l'umanità, l'umanità intera. L'umanità intera, noi siamo figli del mondo, l'Italia non esiste. E quindi saranno ospiti di della puntata radio del primo maggio 2018, terza edizione, primo maggio, occhio all'ingranaggio, sosteniamolo ancora adesso. E ancora musica su Radio Plaza. E ritorniamo ancora una volta, perché le cose sono tante, signori, le cose sono tantissime il primo maggio a Stazione Utopia. Primo maggio 2018, occhio all'ingranaggio anche quest'anno, ingranaggio che stritola, e qualcuno ultimamente ne sa qualcosa dell'ingranaggio, come ti stritola e ti obbliga a dimetterti. E allora continuiamo ancora con la presentazione degli ospiti della puntata di Radio Plaza del primo maggio 2018. Insieme al regista di The Harvest, insieme alla Rete Solidaria, ci sarà anche la Fattoria Senza Padroni di Mondeggi. Una fattoria senza padroni. Una fattoria di una ventina di giovani con competenze ed esperienze diverse che vivono in due edifici della tenuta, contribuendo all'impegno del recupero, manutenzione e messa in produzione di una fattoria senza padroni. Sì, il lavoro viene portato avanti dalla comunità con vari livelli di partecipazione e coinvolgimento ed è frutto di percorsi formativi e di confronto con esperti di agricoltura naturale e sostenibile. Tutto nel rispetto dei cicli naturali e della dignità degli animali e delle persone. È un'agricoltura che si avvale di una meccanizzazione ridotta al minimo. Sì, sì, niente macchine, niente macchine. Al centro l'importante è il lavoro dell'uomo, della donna, delle persone. Della fattoria. Sì, e inoltre promuove anche la multifunzionalità e l'importanza della biodiversità negli agroecosistemi, no? Spieghiamolo un po'. Mettono insieme un po' di cose in modo che le une proteggano le altre, quindi coltivazione di seminativi, alberi da frutto, ortaggi, piante aromatiche, zafferano, gestione di olivi e vigne, allevamento ovino, caprino, galline, ovaiole, apicoltura, il vivaio, le produzioni erboristiche e la panificazione e la birrificazione, tutto in autoproduzione. Tutto in autoproduzione, e dobbiamo dire che tutte queste attività si amalgamano tra di loro proprio per mantenere appunto questa possibilità di non utilizzare né macchine né prodotti chimici inquinanti per poter produrre le cose della terra, no? E la biodiversità con loro viene accresciuta anche grazie ad una casa delle sementi creata grazie ad alcune giornate di scambio di semi e all'attività di vivaio che si svolge in due serre. Insieme a questa l'attività di erboristeria, l'attività erboristica, che ha creato un percorso aperto di autogestione della salute, insomma un po' anche per esplorare pratiche diverse, alternative al sistema che risponde agli interessi delle case farmaceutiche. Molto bene, questa è Radio Plaza e buon ascolto, il brano ve lo presentiamo dopo. Allora, il brano che stiamo per ascoltare è di Mamma Marias e si chiama La Gente. Solo il Presidente della Repubblica e ascolto anch'io Radio Plaza. La gente moderna, la gente pretende, la gente che parla ma poi non sa niente. La gente mente, la gente non sente, la gente sbaglia ma poi non lo ammette. La gente si pente, fa finta di niente, la gente si vanta, la gente si arrende. La gente dimentica sai facilmente e cambia le idee come cambia le tende. La gente, la gente. La gente. la gente sfuggente, la gente gentile apparentemente, la gente normale è superficiale, fa il male e non pensa alle conseguenze, la gente sincera solo se conviene, ti fa un sorriso e ti lecca il sedere, la gente maligna non sta più insieme, si isola e parte alla conquista del potere, la gente, la gente. Fanno tutti i santi col culo degli altri, fanno i filosofi, psicologi, cantanti, si sfidano a chi ha più cassetti di rimpianti. La gente è fredda, non si emoziona, la gente ormai non si commuove, non perdona. La gente è stanca, la gente se ne frega, la gente è invadente, la gente si avvelena. La gente guarda indifferente, guarda chi combatte, chi va avanti, chi va controcorrente. Fa l'eolo, cambia vento, gira la bandiera, si vende, non difende i posteri e l'ambiente. La gente va via, o aspetta il suo messia, si lava la coscienza, padre, non scrove Maria. Non pensa niente, li scansi, abbandona come cani. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente va ahí, la gente va allá. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente va ahí, la gente va allá. Uy, uy, ¿cómo se puede vivir? Sin alma no se puede vivir. El frío que me hacen sentir nunca deja mi misión de decir. Uy, uy. Con Radio Plaza per presentare l'evento che ci sarà il 1 maggio 2018, terza edizione di 1 maggio Occhio all'ingranaggio nell'ex stazione della Circumvesuviana di Marigliano, oggi Stazione Utopia. Sì, vogliamo raccontare un po' che cos'è Stazione Utopia o vogliamo dare per scontato che tutti sappiano già tutto? Invitiamo ad andare a vedere cos'è Stazione Utopia. Poi invitiamo anche ad andare sul blog del collettivo Utopia, dove potrete trovare tutte le informazioni relative all'operazione Stazione Utopia, che non è una stazione fisica, no? È un'idea, un progetto, è un sogno, è una filosofia. E intanto è partecipazione, attività, tante attività già fatte in tutti questi anni sono raccolte sul blog, come dicevi tu, collettivoutopia.noblogs.org. Ritorniamo alla presentazione del programma del 1 maggio a Stazione Utopia, 1 maggio 2018, Occhio all'ingranaggio, quest'anno con... Quest'anno con Teatro Contadino Libertario. A proposito di teatro. A proposito di teatro, sì. Vediamo, Ascanio Celestini diceva. Dice, dirà. Dice sempre. Io Dixit, penso. Dixit, Ascanio Dixit. Vabbè. Io penso che tutto il teatro sia civile. E ti dirò anche di più. Penso che tutto il teatro sia politico. Nel senso che il teatro è un atto pubblico. Qui ci stanno 700-800 spettatori. Io faccio spettacolo per 6 giorni e questo significa che vengono qui 3.500-4.500 persone. Questo è fare politica. Fare politica significa stare nella città, essere un cittadino che si occupa della città, delle cose che riguardano la città, che riguardano anche gli altri. Tutto il teatro è civile, tutto il teatro è politico, anzi, tutto il teatro è politica. Bisogna che l'artista, proprio come artigiano del teatro, si prenda carico di questa responsabilità che ha. E il teatro ci sarà quest'anno a Stazione Utopia, che appunto ospiterà il 1 maggio 2018 autoproduzioni, autofinanziamento e autogestione promosso dal collettivo Utopia di Marigliano, con artisti, musicisti, contadini liberi, associazioni indipendenti, un po' di tutto. E dicevamo, c'è addirittura uno spettacolo teatrale dal titolo Il Minestrone, presentato dal Teatro Contadino Libertario, che viene apposta da Firenze, cari signori. E quindi Che quindi... altro dire? Sul teatro c'è poco da dire, il teatro va visto e va vissuto. E allora vediamo lo spettacolo del Teatro Contadino Libertario Il Minestrone il 1 maggio 2018 a Stazione Utopia. Intanto ci ascoltiamo il brano Oniva di Francesco Forni e Ilaria Graziano dall'album From Bedlam to Lenan del 2015, più o meno sì, è chiaro, è chiaro. Radio Plaza. Ferrari, se ne parla bien rose. C'est une autre chose. On va chercher les femmes. Sa femme et l'âme. On vous serre les mains. Si vous ne promenez pas des champs. On y va à Paris. Avec les Ferrari. Se ne parla bien rose. C'est une autre chose. On va chercher les femmes. Ça va, mesdames, on vous serre les mains si vous ne promenez pas les champs. Wow, wow, 10 uomini e una donna in una stanza. Si tira sorte per guidare la resistenza. I primi tre che escono si sparano alla tempia. Il quarto inizia il suo discorso ed è ancora lì che parla. Il quinto lo fa fuori e si arraffa la sua donna. A questo punto devo andare, che alle 9 è un funerale. Vichingo sul naviglio, perché Dio non prendi me. O meno dacci qualche dritta, che qui c'è aria di sconfitta. Anche solo un po' di denari, che facciamo un bel safari. A zero tutto e dacci solo una Ferrari. Io mi va a Parì, avec le Ferrari. Se le palla via rose, se tu non trovi chose. On va chercher les femmes, ça me dame, on vous et les men. Se tu ne puoi me ne pare, chambo. Oh, volevo dire che sono il sindaco di Marigliano e anche io ascolto Radio Plaza. Na na na na na. Oh, 11 infermieri ed uno ostetrica in sala a parto. Il test è positivo, sono incinto per la terza volta. Mi tocca ritornare dalla vecchia anestesista. Non voglio andarci solo, ho due amici nella lista. Confesso che questa volta mi sconquassa un tremore. Dovresti essere felice, mi sussurra un dottore. Che la liposuzione non passerà allo stato. Con i vampiri di questi tempi il sangue è terminato. La sola di peso in fianco. Non ho nulla da barattare. E a casa un topo, un gufo e due donne da sfamare. On y va a Paris avec le Ferrari. Se ne parla via rose. C'est une autre chose. On va chercher les femmes. Ça me dà un bon pouce et les mains. Pour le monde n'est pas les champs. Galli e due maiale in una stalla, coltelli che scintillano per il gran gala finale. Mentre le teste volano tutte l'una dopo l'altra, gli occhi che sghignazzano seduti al capezzale. Schiere di showman con la giacca sul pigiama rassicurano la gente, la TV vi ama. E sotto fuochi d'artificio tornerete anche a sognare. Non bisogna perciò piangere, combattere o scappare. Ci saranno silicone, mozziconi e rotti per tutti. Addio per sempre, siete troppo brutti. Io mi va a Parì avec le Ferrari. Se ne parla di Eros, se tu non fai show. Son bacio e le femme. Sta va a metà un mondo se le men. Spune uomo ne pare champo. Mi va a Parì avec le Ferrari. Se ne parla di Eros, se tu non fai show. Son bacio e le femme. Radio Plaza! Radio Plaza in piazza ancora oggi, ancora qui per promuovere ancora l'edizione della terza edizione del 1 maggio. Occhio all'ingranaggio, ex Circumvespiana, stazione Utopia di Marigliano. Sì, con Radio Plaza presentiamo oggi il programma. Siamo arrivati più o meno a metà del programma, giusto? Siamo verso le 6:30 più o meno del pomeriggio. Sì, abbiamo presentato abbiamo presentato la Little Free Library, che propone letture per tutti. Bambini, Nova Koinè, adulti, yoga per bambini. Nova Koinè che presenterà questa iniziativa. Lo dico io perché l'ho sbagliato un sacco di volte. Vai, correggiti. Nova Koinè che presenta l'iniziativa Lezioni di straniero per italiani. Sì, interessante. E poi tutta la giornata di stand, poi tornerà a Radio Plaza nel pomeriggio con gli ospiti che abbiamo citato prima. Il teatro l'abbiamo citato poco fa, Il teatro, però prima di continuare ricordo ancora che è possibile sostenere il primo maggio qui al banchetto facendo, insomma, oggi, subito, adesso, una donazione per sostenere le spese vive dell'organizzazione del primo maggio a Marigliano, oppure su produzionidalbasso.com. E dopo il teatro, o prima o dopo, insomma, dopo donazioni dopo, che andranno a finanziare l'intera organizzazione, esatto, dell'evento. Solo l'organizzazione dell'evento, nessuno mette soldi in tasca, diciamolo chiaramente. Diciamolo, l'abbiamo già detto. E anche tutti gli artisti che partecipano non si mettono i soldi in tasca, perché vengono per partecipare, per essere parte attiva e presente del progetto. Molto bene. E quindi siamo arrivati alla danza, perché il primo maggio a Marigliano ci sarà anche la danza, ma una danza di quelle che ci piace, una danza di quelle che, come Pina Bausch diceva, certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ci sono anche dei movimenti in cui si rimane senza parole, completamente perduti e disorientati. Non si sa più che cosa fare. A questo punto comincia la danza, e per motivi del tutto diversi dalla vanità. Non per dimostrare che i danzatori sanno fare qualcosa che uno spettatore non sa fare. Si deve trovare un linguaggio, con parole, con immagini, atmosfere, un linguaggio che faccia intuire qualcosa che esiste in noi da sempre. Sì, e la performance di danza verrà presentata il 1 maggio 2018 a Stazione Utopia da Vanna Piacente Denis e Mishka Shubani, credo si dica. Sì, si incontrano per appuntare note e resoconti di viaggio tra Messico, India, Italia, Turchia, Egitto, Mediterraneo, insomma un progetto di danze dal mondo. Sì, danze dal mondo. Quindi non mancate a Stazione Utopia il 1 maggio 2018. Con il progetto, appunto, Danze dal Mondo, che cerca di fare, di proporre danze attraverso esperienze in cerchio, perché il corpo esprime forma e disegna geometrie nello spazio. E quindi questo è quello che ci proporranno Vanna Piacente Denis e Mishka Shubani il 1 maggio 2018 per la terza edizione del primo maggio Occhio all'ingranaggio a Stazione Utopia. Ed è questo che propone anche Franco Battiato nel disco L'Arca di Noè dell'82. Il brano che ci ascoltiamo adesso, immediatamente e mai più su Radio Plaza, è Voglio vederti danzare. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del katakali. E gira tutti intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutti intorno alla stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Radio Plaza, ecco qua Radio in piazza. Plaza in piazza oggi e siamo arrivati verso sera. Verso sera, e sì. Verso sera, il primo maggio a Stazione Utopia. Cioè dalle 20:30. Dalle 20:30 inizierà il concerto, il concertone del primo maggio. Concertone? Eh beh, si dice così, no? Direi di sì. A Roma, lo dicono a Taranto e lo diciamo anche concertone noi a Marigliano. Il primo maggio 2018 a Stazione Utopia. Vediamo chi sono gli ospiti al concerto. Allora avremo X-Ray, Mimmo Taki, Finti Illimani, Alberi Alti, Benevento, City Ramblers e Random, tutti insieme. Questo è il programma per il concerto, la parte musicale. Se qualcuno si sta chiedendo, ma di cazzo sono sta gente? Bene, tra poco vi spiegheremo pure chi sono questi personaggi e perché vengono a Stazione Utopia. Perché a Stazione Utopia non è che ci si arriva per cazzo, per caso. Ci si arriva, diciamo così, perché la vita porta in certi percorsi che poi ti portano a Stazione Utopia. E a Stazione Utopia si arriva perché si invitano persone a partecipare, come si invitiamo tutti oggi a partecipare sia al primo maggio 2018 all'evento, all'intera giornata che si terrà a Stazione Utopia, e sia a partecipare ora adesso alla raccolta fondi per l'organizzazione del primo maggio a Stazione Utopia, oppure su www.produzionidalbasso.com. Sì, primo maggio di arte, di intrattenimento, di indipendenza, di autonomia, di cibo buono, di birra artigianale e di musica, musica, musica. Bella la piazza delle Pipparelle, diciamo in questa atmosfera da multisala, no, da cineplex, con questo odore di popcorn che gira per l'aria grazie agli amici scout. E comincia anche a gocciolare mentre gocciola, no, gocce. E mentre gocciola, mentre gocciola, non pioverà, state tranquilli, non piove. Mentre gocciola, leggiamo cosa possiamo dire sulla musica. Ce lo dice Albert Einstein. Albert Einstein parla di musica, quindi voglio dire, è tutto un dire. Ecco quello che ho da dire sulla musica. Ascoltatela, suonatela, amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa. Questo è Albert Einstein che parla di musica. Einstein che parlava di musica, e questo invece è Mimmo Taki che sarà presente il 1° maggio a Stazione Utopia per il concerto serale a partire dalle 20:30. Questo è Mimmo Tachi con un brano che si intitola Fiumana Mantra Prod. Questo è Mimmo Tachi, lo sentiamo, arriva. Lo sentiamo sottofondo, arriva, e lo sentirete il 1° maggio a Stazione Utopia, mi raccomando, Radio Plaza. O flusso batte forte come pioggia in faccia in last. O rumore persistente calma suggerisce in gas. Strunz, maranara, si mare è calma. L'acqua è forte, astuto pure a chi promette fuoco e fiamma. O fondale fuoto, fai brutta e non te ne futta. Ma si fio farà butta fuoco per dindasti flutto. Dopo tutto si mi sfrutta, sta distrutto ogni costrutto. Tutto stile innanzitutto, già roi un road e boot. E tu che guarda su in superficie, travolta l'onda invade l'edificio. So come l'acqua non un corpo è strano. Che alimenti il faldo sotterraneo. E perché non mi accontenta, che alimento mi accontenta. Scenga a valla prepotente, giù veloce in un torrente. La risposta sta sorgente, sciaffone nei vigliacca. Ai ripara, camo sa privare, vada vada in l'acqua. Non esiste resistenza che se tutti impermeabile. Ognuno di sti essere sono sempre indispensabile. Restano lontano, otra volta una fiumana. Cade rivere, detridere, declini di sti umana. Non esiste resistenza che se tutti impermeabile. Ognuno di sti essere sono sempre indispensabile. Resta nel lontano, otra volta una fiumana. Cade rivere, detridere, declini di sti umana. Yeah. Yes. Mantra Pro. Mimmo Tachi. Fiuman. Un fiume rompe l'argine, ma che sta giusta viva. Se mo legale s'arraggiano, è logica che strariva. Se cancellano ti espondo, quando è sonda e poi dissipo. Sulle note della musica di Mimmo Tachi che ascolteremo il 1° maggio a Stazione Utopia, continuiamo a presentare gli artisti che saranno al concerto del 1° maggio 2018, terza sì. edizione. Sì, ci saranno i Random. Vogliamo ascoltare direttamente un brano di introduzione senza perdere tempo? Non perdiamo tempo, allora ascoltiamo anche i Random con brano, con il Let's brano... Let's Go Down dei Random, live il 1° maggio a Stazione Utopia qui a Marigliano. Non andate al mare. The mother of the people is the silence of the dead. Four people on the square, coming of revolution. The mother of the people, you can never, you never trust me again. Let's go down off the beat. Let's go down. Questo è un assaggio dei Random che, dicevamo, saranno al concerto del 1° maggio 2018. Un assaggio dei Random che, giustamente, no? Se è Random... È poco poco, è Random Random. È un assaggio, sì, un assaggio. Allora, avevamo detto X-Ray, Mimmo Tachi, Benevento, City Ramblers, Random e poi arrivano. Quindi anche... al momento, scusami, stiamo... Abbiamo ospiti artisti rap e... rock bello duro. Andiamo avanti? Andiamo avanti e abbiamo gli alberi alti che sono Angelo e Dave. Sì. E che propongono testi scritti da Dave che parlano di situazioni comuni e di, dei dettagli che noi ignoriamo ogni giorno. Una voce dolce ed una un po' arrabbiata e li vogliamo ascoltare. Sì, loro fanno musica elettronica, niente male direi, li ho ascoltati molto attentamente in questi giorni e buon ascolto, questa è Radio Plaza e loro sono gli Alberi Alti che ci hanno detto che hanno l'intenzione di guidare lo spettatore in un viaggio emotivo che lo conduca nella propria interiorità in tutto ciò che ogni giorno ignora. Signori, faremo un viaggio insieme a loro. Radio Plaza! Pensiamo a tutto ciò che ci viene in mente, facciamo finta che non sia finita mai. Pensiamo a tutto ciò che ci viene in mente, facciamo finta che non sia finita mai. È stata solo colpa del tempo se ora abbiamo perso di vista i nostri sorrisi, se le gambe andavano in direzioni sbagliate quando speravo di incontrarci. È tutta colpa del tempo se in quella casa non ti ho mai vista, se tua sorella cresceva e tu rimanevi più bella. Facciamo un riassunto, un riepilogo. X-Ray, Mimmo Taki, Benevento City Ramblers, Random, Alberi Alti e poi Finti Limani. Finti Limani. Sappiamo chi sono i Finti Limani? No, però si può intuire un po'. Finti Limani, si può intuire sia il genere che diciamo così l'ispirazione, no? I Finti Limani sono un gruppo musicale napoletano autofinanziato, no profit e politicamente scorretto, così come si autodefiniscono. Sì. Suonano prevalentemente in contesti di impegno politico e sociale. Sono attivi già dal 2000, quindi quasi 18 anni, insomma, quasi 20 anni. Sì. E insomma, sostengono realtà schierate politicamente, impegnate civilmente, fanno musiche originali, fanno musica etnica e riprendono canzoni cilene. Possiamo dire che sono dei compagni, no? Lo possiamo dire senza ombra di dubbio, ai 420, a fiati spalancati e a gole aperte. Al 1 maggio 2018 presenteranno il loro album trailer Quando i treni viaggiano sicuri. Sì. 1 maggio 2018, che ha sempre quel titolo lì, quello della prima edizione, quello della seconda edizione. Quest'anno per la terza edizione non cambia il titolo, non cambia il contenuto, non cambia il messaggio, non cambia nulla, cambia tutto, perché occhio all'ingranaggio. Questo è il titolo del 1 maggio a Stazione Utopia. Non mancate, mi raccomando, la giornata sarà più o meno così, quindi non organizzate viaggi, non organizzate mare, soprattutto non andate in chiesa. Arrivate lì a Stazione Utopia dalle 10 per tutta la giornata fino a mezzanotte, si mangia, si beve, si legge, ci si rilassa, si incontra gente, si incontrano contadini che sono usciti fuori dal mercato, che producono i loro prodotti nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, e soprattutto ci saranno gli spettacoli, danza, musica, teatro, arte, musica e il concerto serale con gli artisti che vogliamo ripetere chi sono. X-Ray, Mimmo Taki, Benevento City Ramblers, Random, Alberi Alti, Finti Limani. Prima però di sentire il pezzo dei Finti Limani, volevamo raccontarvi un po' dell'album che loro proporranno, perché ci sembra a tema con la stazione, un viaggio musicale in un treno ideale che percorre gli ultimi 40 anni di politica internazionale, seguendo il filo nero che corre sui binari che collegano le dittature sudamericane e le vicende italiane e internazionali. Sì, un disco registrato tra Napoli e Santiago de Cuba, con la partecipazione di Daniele Sepe, Gordon Paul, Andrea Campese, Romilda Bocchetti. Un disco realizzato tramite le produzioni dal basso, che sono proprio quelle a cui facevamo riferimento prima per sostenere le spese vive necessarie per l'organizzazione del 1 maggio a Stazione Utopia. Mi raccomando, produzionidalbasso.com, andate e versate tutti i vostri averi sul progetto 1 maggio, occhio all'ingranaggio a Stazione Utopia quest'anno. Tenetevi qualcosa anche per voi, per poi tenerla, insomma, qualcosina, per poi venire al 1 maggio 2018 a Stazione Utopia. E magari comprare anche il disco dei Finti Limani, grazie al quale per ogni CD venduto un euro viene devoluto ad Emergency, e il ricavato delle vendite è in parte reinvestito in progetti sociali, grazie ad organizzazioni ecosociali operanti sul territorio napoletano come il Gridas e le edizioni Marotta e Cafiero. E adesso ci ascoltiamo il brano La Partida dei Finti Limani, dall'album appunto Quando i treni viaggiavano sicuri. Ammazzate Radio Plaza! Volevo dire che anch'io ascolto Radio Plaza nonostante mi sono dimesso. Visto che sono il professore di filosofia nonostante che mi sia. Questa puntata di Radio Plaza di oggi sta andando verso la conclusione, ma abbiamo ancora un po' di cose da dire. Gloriosamente, diciamo gloriosamente verso la conclusione di questa puntata specialissima di Radio Plaza. Abbiamo parlato per tutto il tempo del primo maggio 2018, terza edizione di Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio. Abbiamo parlato per tutto il tempo di Occhio all'Ingranaggio e... proprio perché abbiamo parlato per tutto il tempo del primo maggio a Stazione Utopia, facciamo una piccola parentesi, piccolissima parentesi. Signori e signori, sta per scoppiare la guerra. Occhio, attenzione, ci sono venti di guerra in giro per il mondo. Quell'imbecille di Trump insieme a quell'idiota di Macron stanno organizzando la guerra in Siria. E gli aerei, occhio, partono signori, dalla Sicilia, occhio. Signori, gli aerei partono dalla nostra Sicilia. Occhio, noi che qualcosa lo dobbiamo dire. Occhio contro. Che anche in Italia ci sono dei grandissimi imbecilli che credono nella guerra. Signori e signori, vi raccomando, isolateli, minimizzateli, ridicolizzateli e soprattutto andateci umiliateli contro. Umiliateli questi tutti guerrafondai contro. Bastardi guerrafondai. Facciamo un riepilogo dell'intera giornata del primo maggio 2018 a Stazione Utopia. Dalle ore 10 ci sarà la Little Free Library con Raccontami una storia, letture per bambini 0-3 anni, questa piccola libreria libera insomma, che segue l'idea di prendi un libro e lascia un libro, si trova in via Aliberti a Saviano. Insieme nella mattinata ci saranno quindi letture per bambini 0-3 anni e yoga per bambini, e contemporaneamente l'associazione Nova Quenè terrà le sue lezioni di straniero per italiani. Mentre la Fucina dell'Arte proporrà una estemporanea di pittura. E Carmen Colonna e Erminia Gioppa faranno lo yoga per bambini. Non dimenticate. Ci si avvierà così in pieno relax verso il pranzo. Diciamo che la presenza dei bambini è sempre benaugurante, è sempre ricca di vitalità. Guarda la piazza oggi riempita di bambini grazie all'intervento, diciamo, dei nostri amici scout. E buon lavoro anche a loro. Buon lavoro anche a loro, sperando che possano, diciamo così, inserire nei loro giochi qualcosa che, diciamo, guardi più alla pace che alla guerra. Comunque niente male, possiamo ritenerci soddisfatti di questa piazza rumorosissima oggi. Vivace, una piazza vivace, sì. piena di gente come sarà il primo maggio a Stazione Utopia. Eh sì, li aspettiamo tutti, quelli che sono arrivati qua in piazza oggi, hanno ascoltato queste parole e queste voci sconclusionate. Mi raccomando, segnatevi questa data. Vi aspettiamo tutti il primo maggio per tutto il giorno con gli stand di cibo, di cucina clandestina, cucina marocchina, collettivo Utopia, Candelita Libri, Caos, autoproduzioni contadine. Saremo tutta la giornata insieme e ci avvieremo fino alle 17 più o meno con un'altra puntata di Radio Plaza. Sì, più o meno alle 17 ci sarà la puntata di Radio Plaza con le interviste a Mariani, regista di The Harvest, solidaria per Sfrutta Zero, Mondeggi, Fattoria Senza Padroni e ancora la Little Free Library di Saviano, sì. Poi, due letture molto interessanti. Sì, programma ricchissimo che si sviluppa poi con lo spettacolo teatrale del Teatro Contadino Libertario di Firenze. Il compagni che arrivano gratuitamente apposta da Firenze per questo spettacolo teatrale dal titolo Il Minestrone. A seguire ci saranno Vanna Piacente Denies e Mishka Shuvani con Danze dal Mondo. Sì, anche lo spettacolo di danza imperdibile, qualcosa di insolito e mai visto qua a Marigliano. Andiamo avanti, poi alle 20.30. Alle 20.30. Alle 20.30 comincerà il concerto con X-Re, Mimmo Tachi, Finti Limani, Alberi Alti, Benevento City Ramblers, Random. Sì, grandissimo concerto con generi completamente diversi l'uno dall'altro, artisti giovani, non diciamo emergenti, perché sono artisti che stanno già al, diciamo, nell'empirio dei grandi improvvisatori e sperimentatori. Ricordiamo che per sostenere le spese, per contribuire a sostenere le spese per l'organizzazione dell'evento primo maggio, occhio all'ingranaggio, terza edizione 2018, si può fare qui adesso e ora al banchetto, o si può fare tramite il sito www.produzionidalbasso.com. cercate primo maggio a Stazione Utopia. Sì, e altre informazioni le potrete ricavare dal blog del collettivo Utopia, che ripetiamo è collettivoutopia.noblogs.org. E allora verso la chiusura, salutando ora questa puntata, finisce qui ma Radio Plaza tornerà. Salutiamo con il brano di Sandro Joyet, che è stato ospite della prima edizione del primo maggio, occhio all'ingranaggio a Stazione Utopia. Sandro Joyet, qual è il titolo del brano? Il titolo del brano che Sandro Joyet canta con Eugenio Bennato dall'album Migranti del 2016 è Se ne passa. E in questo momento di stallo totale della politica italiana, io direi vota Radio Plaza. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Traverser à la nage les détroits, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Les miradors de Ceuta, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Les barbelés de Melilla, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Des murailles hautes comme ça, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ishunina Betaga, Ishunina, Ikana Igobile, Ishunina, Ibetaga, Ishunina, Ikana Inebile. Sono un autore e volevo dire anch'io che ascolto Radio Plaza. Radio Plaza. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Déportés en plein désert, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Garde frontière repousse misère, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Le mur d'acier de Tijuana, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Les 20 000 hommes de la migra, ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ishunina, Ibetaga, Ishunina, Ikana Ikobile, Ishunina, Ibetaga, Ishunina, Ikana Inebile. Non è questo no che li fermerà. Non è questo no che li fermerà. Non è questo no che li fermerà. Non è questo no che li fermerà. Tre continenti ad un unico viaggio, foreste deserti da attraversare, il sole che brucia, il sonno, la fame. Non è questo no che li può fermare. Radio Plaza vi saluta e vi augura un buon appetito qui nella Piazza della Pippa. Oggi presentazione del programma del 1° maggio 2018 a Stazione Utopia, autoproduzioni Collettivo Utopia, autofinanziamento, autogestione, collaborazione, condivisione, ospiti internazionali, stand espositivi, gastronomia naturale, birra artificiale e musica dallo spazio!